Sex is not religious. Sex is painful. Sex is not polite. Sex is dangerous. Sex. I'll be your Musica e suono! accende la passione, si spegne solo quando si incontra anche l'amore. È una forza che si muove portandoci lassù, a volare con la mente dove il cielo si fa blu. Let's go. Жизнь. questa magica notte la voglio passare con te, con te. Non mi chiedere come, né dove, nemmeno il perché, con te. Questa magica notte la voglio passare con te, per volare, sognare, ballare e sorridere. Potrei andare a ballare ma senza di te, di te. Potrei stare con gli amici e pensar solo a me, a me. Potrei restare in casa e dirti una scusa, però è importante che tu non sia delusa. Ma questa volta te lo giuro davvero, e dammi ascolto perché sono sincero. Tu devi credermi, senti con che questa magica notte la voglio passare con te. Take that thing, bitch. miłości smutek i nadzieja. Muszę przestać łudzić się, przyjąć prawdę, jaka jest. Tak napisałeś już na stronach swego życia. Nic tam nie zmienię, bo popełnię błąd. promesse n'est pas oubliée. La promesse n'est pas oubliée. La promesse n'est pas oubliée. La promesse n'est pas oubliée.

In a time where the sun is so low, I ran a long, long way from home to find a heart that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Every time I see you, I try to hide away. When we meet, it seems I can't let go.